Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, che conduce ogni giorno Italia in controluce, il programma di approfondimento di Radio 24 che racconta l'Italia. L'eclisse della democrazia, il titolo del libro inchiesta scritto da Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci sui fatti del G8 di Genova. In particolare il lavoro si incentra sulle inchieste sorte attorno ai fatti della scuola Diaz e a quanto avvenne nella caserma di Bolzaneto, un libro che rivela alcuni passaggi fino ad oggi rimasti senza voce, come racconta Vittorio Agnoletto a Cristina Carpinelli. Noi abbiamo deciso di scrivere questo libro proprio in accordo col pubblico ministero Enrico Zucca, perché ci eravamo accorti che le vicende genovesi seguenti a quel drammatico luglio, e quindi tutte le inchieste, erano state seguite molto poco dai media e che purtroppo negli atti processuali erano emerse situazioni gravissime che ritenevamo nostro obbligo etico e morale portare a conoscenza del grande pubblico, perché riguardano non solo fatti passati ma anche situazioni presenti. Il pubblico ministero Zucca racconta nel libro come in tutti i modi è stato tentato di bloccare da parte di diverse figure, ruoli istituzionali, di bloccare prima l'avvio del processo per i fatti della scuola Diaz, cioè l'assalto notturno nella notte di sabato 21 luglio 2001 contro chi dormiva nella scuola con 93 persone ferite, quindi prima di bloccare l'avvio dell'inchiesta e poi, una volta che l'inchiesta era avviata, di cercare di fermarla facendo finta che non fosse accaduto nulla e di chiudere tutto. Noi raccontiamo di una, l'abbiamo chiamata proposta indecente, quando su mandato della Questura un magistrato ha proposto ai magistrati che indagavano su quanto è venuta la Diaz il pari e patta, cioè voi non andate avanti con questi processi, tutto si chiude in nulla e dall'altra parte non si va avanti sui processi contro i manifestanti. Cosa assolutamente assurda, non perché la magistratura, solo perché la magistratura è un organo dello Stato e ovviamente non rappresenta certo i dimostranti e quindi questo scambio non aveva alcun senso, ma proprio a priori, perché questo è uno scambio che è totalmente anticostituzionale, in contrasto con il diritto penale italiano e con diritto in tutto il mondo. Quella proposta indecente fu rinviata immediatamente al mittente dei magistrati, ma comunque venne presentata. Oppure raccontiamo come a un certo punto dell'inchiesta, quando i magistrati non si limitano più a cercare solo di individuare i responsabili materiali di quelle violenze, cioè coloro che in divisa hanno massacrato di botte la gente che dormiva alla Diaz quella notte, ma di risalire a chi aveva dato gli ordini, comincia a girare nel Palazzo di Giustizia di Genova una voce molto inquietante: attenzione, andate con calma perché ci potrebbe essere una ribellione da parte dei poliziotti. E allora noi ricordiamo come mesi prima a Napoli, quando altri magistrati avevano indagato dei poliziotti, c'era stata una rivolta vera e propria, i poliziotti avevano circondato la questura per impedire l'arresto di alcuni loro colleghi. E la lista potrebbe continuare. In effetti la cosa che più impressiona nel vostro libro, che rilegge un po' i fatti e appunto, come diceva lei, tutte le tappe dell'inchiesta, la cosa che più impressiona o che ha impressionato me è lo sbandamento delle istituzioni, no? Che inizia con Genova, con il contenimento nella violenza della piazza e che poi va avanti. È come se ci si muovesse in un contesto del non consentito che in qualche modo si legittima per il solo difendere le istituzioni del paese. Sì, e quello che lei dice accade non solo durante quelle giornate, ma accade poi per 9 anni. Cito un episodio che noi riportiamo nel libro, e tra l'altro è un libro che contiene tutti i nomi e cognomi. Quando parliamo di responsabilità individuiamo, indichiamo coloro che noi riteniamo responsabili, ovviamente è tutto documentato. Per esempio, nella deposizione del 3 maggio del 2007 viene sentito il dottor De Gennaro ai tempi capo della polizia, oggi promosso coordinatore unico di tutti i servizi segreti. In quel momento lui è accusato di istigazione alla falsa testimonianza di un subalterno, cioè del questore di Genova Colucci. Verrà poi più tardi condannato a 1 anno e 4 mesi per questo reato. Ecco, durante quella deposizione del 3 maggio 2007, noi scriviamo così: ebbene, in quale circostanza il difensore di De Gennaro, l'avvocato Franco Coppi, uno dei principi del foro nel nostro paese, è arrivato a sostenere un concetto inedito, ossia la, aperte virgolette, incompatibilità personale con l'imputazione, chiuse virgolette, del suo cliente. Cioè, come dire, non potete, si rivolge ai magistrati, rivolgere queste accuse perché queste sono incompatibili con la figura dell'imputato, cioè di De Gennaro. Sono incompatibili col ruolo che lui svolge, sono incompatibili con quanto lui ha realizzato in questi anni, ad esempio nella lotta alla mafia, eccetera. Ecco, è evidente che di fronte a questa affermazione i magistrati hanno reagito in modo molto duro, dicendo: vabbè, allora a questo punto non si può neanche svolgere alcun processo. Se c'è qualcuno che per la sua funzione o per i meriti passati si pone al di sopra delle leggi. E infatti la reazione dei magistrati, i loro scritti, i testi che noi riportiamo sono molto duri. Ma questo episodio dimostra come purtroppo ai massimi vertici delle forze dell'ordine c'era la convinzione dell'impunità, che il loro ruolo li metteva al sicuro da qualunque inchiesta. Ci sono nel libro intercettazioni di telefonate realizzate dai magistrati, di telefonate tra i vertici della polizia e tra i vertici della polizia e alcuni poliziotti imputati, dove questi vertici polizia dicono in modo molto chiaro: a quei magistrati gliela faremo pagare, gli arriverà addosso qualcosa. E poi infatti noi raccontiamo nel libro tutti i tentativi di coinvolgere Zucca in vari scandali e di sottrarre il processo alla sede naturale di Genova, tentativi che poi fortunatamente non possono proseguire. Ecco, potrebbe anche essere interessante raccontare un episodio specifico, cioè com'è che a un certo punto i magistrati vengono a scoprire tutta la questione delle Molotov. Allora, due Molotov sono state trovate, dichiara la polizia, all'interno della scuola Diaz, e quindi vengono accusati tutti coloro che dormono nella scuola Diaz di essere i possessori di quelle Molotov. Durante il processo emerge un'altra verità: quelle Molotov sono state trovate da tutt'altra parte, sono state portate dentro la Diaz appositamente dalla polizia per poter accusare i ragazzi di possesso di queste armi. Viene fatto il processo, sono accusati i poliziotti di aver costruito questa prova falsa. A un certo punto le Molotov scompaiono, erano state affidate dai magistrati alla questura per conservarle in attesa del processo. Quando gli avvocati degli imputati, cioè dei poliziotti, chiedono che le Molotov siano portate in aula, queste Molotov non ci sono più. E colui che le doveva sorvegliare della questura dice: le ho distrutte per sbaglio. Bene, i magistrati scoprono che non è così, scoprono che la Digos è andata da questo poliziotto, si è presa le Molotov e gli ha detto di non farne parola. Come lo scoprono questi magistrati? Questo è incredibile. Seguendo un'altra inchiesta, i magistrati stavano seguendo per tutt'altra questione un uomo d'affari siriano che vive a Genova, inserito nella blacklist dell'ONU come trafficante d'armi. Il suo telefono è sotto intercettazione, si scopre che questo uomo d'affari siriano inquisito ha prestato soldi a personaggi ad alto livello nella questura, viene messo sotto controllo il telefono di costoro e lì giunge la telefonata del poliziotto che doveva custodire le Molotov, che dice al suo collega: ah, sai, mi hanno detto di dire che le ho distrutte, ma invece se le portate via la Digos. E allora questo poliziotto poi a sua volta viene inquisito. Ecco, sembrerebbe che stiamo ragionando su un giallo, e purtroppo non è un giallo, purtroppo sono spaccati estremamente preoccupanti di quelli che sono stati i comportamenti di una fetta importante della polizia italiana in questi anni. Italia in Controluce, la seconda edizione, cercateci tutti i giorni su Facebook, su Twitter, abbiamo un blog che trovate su radio24.it, siamo raggiungibili via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani con nuove storie, nuovi reportage alle 6.30 su Radio 24.